Buonasera, ben arrivati allo studio. Dovete rispondere. Di Cox Spaziale. Potete grazie. Avete, sì. Esatto. Sì. Ecco, oh, vedi. Esistiamo, siamo effettivamente okay. Sì, siamo qui. Siamo qui. Già scaldati dalle conversazioni fuori onda del pre Cox Spaziale, sentivo che stavate raccontando di alcune cose che però non ho decifrato se erano direttamente nell'argomento di stasera oppure. No, stavamo dicendo che Facebook è morto e dunque il loro nuovo spazio che hanno aperto da pochissimo non ha la pagina Facebook. Il nuovo spazio che si chiama? Che si chiama Sette Bello. Studio Sette Bello. Studio Sette Bello. A me mi hanno bannata da Facebook. Ah, sei stata bannata. Secondo me non sta simpatica a Zuckerberg, quindi se riproviamo a fare un profilo con lo studio potrebbe finire male. Come mai? Come mai ti hanno bannata? Vabbè, non lo cioè, avrà fatto del. Sarò un'entità sovversiva per Zuckerberg. Ho capito. E questo studio 7 Bello si trova a Bologna in via Cartolerie, numero non lo so. 7 è certo. Che domanda stupida, naturalmente. Ogni nome ha un significato. Esatto. Una ragione d'essere. Esatto. E quando abbiamo aperto il laboratorio abbiamo anche trovato una carta di denari. E da lì un po' l'idea del Sette Bello, anche come via cartoleria, le carte. Esatto. Indovinate qual era la carta? Sette. No. Era il re di denaro. Era un otto. Un otto. No, comunque partiva anche questa cosa del Sette Bello perché nel gioco di carte scopa col Sette Bello si fa punto. Certo. E quindi abbiamo anche un po' giocato su questa cosa, no? Che per una serie di casualità che ci hanno portati poi a trovare il posto al numero 7 in questa via che si chiamava Cartolerie. Abbiamo fatto proprio punto. In più, tutti che veniamo un po' dall'ambiente di provincia, io ho un po' questa fissazione di risignificare, no, la provenienza da provincia come qualcosa di anche diverso da quello che ti viene detto mentre cresci, che magari è un posto morto senza niente, ma in realtà può essere fonte di ispirazione e creatività. Da dove venite? Io da Bergamo. Io da Carpi, dalla bassa modenese. Però sono nata a Bergamo. Io invece ammetto sono bolognese. Ah, no, io sono bolognese. Io sono proprio bolognese. Pensa che sono stata a Carpi stamattina. Ah sì? Sì, sì. E che cosa ti ha lasciato? A parte la nebbia. No, era una giornata stupenda. Io la vedo in maniera molto romantica. Carpi. Essendo tutto piatto, è un po' come vedere l'orizzonte al mare. È vero. È un po' come vedere il mare. In realtà è nebbia. Sì. Sì. No, in realtà è l'autostrada. C'era un cielo chiaro, era bellissimo. Sei andata a prendere qualche opera? Sono andata sia a fare dei moduli per delle opere che stanno a Carpi, quindi non si può neanche dire che non insomma, c'è il Palazzo dei Pii a Carpi. Sì. Perché Isabella l'abbiamo precettata mentre sta organizzando una mostra in 14, sta co-curando una mostra in 14 sedi contemporaneamente, cioè sei la co-curatrice più co-curatrice che io abbia mai sentito dire. No, cioè, come si fa a co-curare una mostra in 14 sedi? Allora, lì la mente geniale e diabolica è Roberto Martorelli. Ok, che salutiamo. Perché è lui che salutiamo. E che siccome doveva cenare non è venuto. No, ma che ci sta ascoltando sicuramente. Un lavoro di coordinamento pazzesco. Sì, no, immagino, anche perché 14 mostre collettive, fra l'altro tutta di pittura dell'Ottocento, per cui tutte opere con una certa assicurazione, eccetera, eccetera. Cioè, non oso pensare cosa voglia dire. Però lui è bravo, perché lui in realtà ha coinvolto le persone, gli enti nel progetto e poi gli ha detto: questo è il tema, poi voi siete liberi di fare quello che ritenete più opportuno, di decidere che cosa tirare fuori, che cosa non tirare fuori, eccetera eccetera. Io faccio solo il coordinamento di questo, mica tanto. Sì, lui fa il coordinamento, ha messo insieme tutto e il lavoro questo. Sporco lo devi far tu, per cui tutta la burocrazia eccetera. No, per fortuna il Museo del Risorgimento è strutturato, quindi insomma qui dobbiamo ringraziare moltissimo anche il direttore del Museo del Risorgimento, Otello San Giorgi. Ringraziamolo. Un sforzo enorme insomma da parte di questo piccolo museo, ma che è stato d'impulso per questa cosa, che coinvolgerà, si spera, insomma sembra proprio tutta la città. Ah, certo. Un piccolo grande museo che era anche la casa di Carducci, giusto? Era anche la casa di Carducci, sì. Infatti la sede espositiva del Museo del Risorgimento è a casa Carducci, proprio dove c'è a piano sopra c'è la casa Carducci, piano terra c'è il Museo del Risorgimento, nella sala polivalente del Museo del Risorgimento c'è la parte di mostra del Museo del Risorgimento, lì, e poi due sale alle collezioni comunali d'arte, poi anche alcune aggiunte, alcune cose, dato che le collezioni comunali d'arte a Bologna sono l'unico museo che in modo permanente mostra delle opere dell'Ottocento. Allora ci sono alcune aggiunte al percorso classico sull'Ottocento e poi ci sono due sale allestite a cura del Museo del Risorgimento all'interno delle collezioni comunali d'arte. Ho visto anche il Davia Bargellini, o mi sbaglio? C'è anche il Davia Bargellini, mm-hmm, naturalmente, che tira fuori le cose stupende, mm-hmm, e poi ci sono dentro, quindi diciamo che vi partecipano i musei comunali nel loro complesso, mm-hmm, e poi anche altri enti, la Fondazione Carisbo, poi il Collegio Venturoli, certo, e poi noi abbiamo dei prestiti dalla Pinacoteca, e poi ci sono le gallerie che aprono, sì, le loro porte, il Museo Ottocento, il Museo dell'Ottocento, e poi tutte, diciamo, quelle lo studio Settebello non vuole un quadro dell'Ottocento, non avete qualcosa dell'Ottocento da proporre? Oddio, potremmo scavare. Allora, abbiamo un quadro in studio, no, tra l'altro mi ricordo abbastanza che... che potrebbe essere dell'Ottocento, che ho comprato da questo artista che fa Breiter, Breiter, e ci ha fatto delle tag sopra. Ah, ok. Quindi fantastico. No, dai, forse no, non vediamo. Mi ricordo, per esempio, Pasek qualche tempo fa aveva fatto una collettiva in cui c'era un Hayez. Sì. Beh, quanto tempo fa? Cerchiamo, ma raga. 2 o 3 anni fa. Andiamo. Me l'ero persa, anche perché abito vicino al Parsec, quindi tu okay. Nel posto, mm-hmm, dove abbiamo lo studio è stata trovata una cripta, mm-hmm, successivamente scavando, quindi potremmo, sì, continuare a scavare. Potresti continuare a scavare? Troveremo la barca dei Goonies, cosa troveremo? Il vostro spazio è un po' particolare, devo dire. Sì, un po' labirintico. Sì, io lo definirei tipo esceriano un po', no? Perché su più livelli che si incastrano, perché l'entrata è un semplicissimo spazio, quindi piano, sì, terra con un soppalco, però poi se ci si avvicina sulla sinistra si scendono delle scale, si va sottoterra, ci sono più livelli effettivamente, e poi si scende di nuovo, c'è la cripta, e poi si va ancora più sottoterra, e poi quando si arriva nello spazio in cui noi tendenzialmente lavoriamo, poi si va a finire in questo corridoio, sto posto che non si capisce dove porti, e si porta in camera oscura, quindi proprio sono cunicoli. Cioè, è molto bolognese come spazio, secondo me, comunque. Queste scalette, questi spazi. Lo dobbiamo prendere come un complimento. A scoprire. No, è figo. Molto bolognese. Preso come un complimento. No, figo. Sì. No, è figo, sto dicendo che è figo. Sì, perché comunque è questa struttura medievale. È figo. Avete inaugurato quando? Il 9 novembre? Sì, il 9 novembre abbiamo inaugurato. E tra l'altro è venuto anche un bel po' di gente. Nel senso, bello. Non pensavamo andasse così bene l'inaugurazione, invece tanti curiosi sia dell'Accademia, perché ovviamente noi siamo tutti ormai da una settimana ex accademici, io da un anno, ma da poco, sì, però sì, tante persone dell'Accademia, ma anche esterni, cioè proprio anche soltanto persone passanti che si erano incuriosite, perché comunque in quella via c'è, in via Cartoleria c'è anche comunque il teatro, c'è anche un altro spazio che fa il Plagradio, che fa a volte esposizioni, però non c'era uno spazio così definito a studio, quindi la gente che passava la vedevi proprio che sbirciava mentre noi eravamo lì dentro. E poi c'è il liceo con i ragazzini che passano. Esatto, anche. E quindi no, c'è stata tanta gente, belle energie, voglia di fare. Non sono venuti degli studenti del liceo artistico a dire: posso venire a esporre da voi? Ah, che dolcezza. Beh, le avremmo fatte esporre, tra l'altro. Esatto. Sì, esatto. Cioè, perché no? Secondo me sono ancora un po' intimiditi, non hanno ancora ben capito magari cosa c'è. Non ci hanno visti, probabilmente. Non ci hanno ancora visti. Dobbiamo andare a pescarli noi. No, sono venuti dei prof del liceo quando avevamo fatto mercatino al bar. È vero. Anche la professoressa dell'Accademia era passata pure al mercatino. Perché dunque voi siete uno spazio espositivo e uno studio dove fate i vostri, le vostre opere artistiche, ma giusto? Sì, per, in primis siete uno studio, un laboratorio. Dopodiché, esatto. Dopodiché avete deciso di esternare. No, avete aprire lo spazio a chi è curioso e chi ha necessità anche di portare la propria arte o quello che vuole definire se stesso in uno spazio, perché ad oggi è molto difficile poter esporre i propri lavori, soprattutto se è magari in una fase un po' acerba, no? Iniziale, certo, all'interno di una galleria o comunque poi ci sono delle regole, ci sono delle condizioni che magari non sono accessibili a tutti. Nel nostro caso abbiamo un cuore, un sentimento molto popolare. Siamo scialli. Tutto come va detto, siamo Siamo semplicemente anche noi delle persone giovani e con zero soldi in tasca. Ci piace dare la possibilità a chi vuole di portare i propri lavori e collaborare con loro, perché anche per Art City comunque. Ma infatti la prima esposizione che abbiamo fatto rifletteva proprio su questo, su quanto le regole burocratiche di uno spazio possano influire sulla creazione di un'opera o anche banalmente di un'installazione, cioè di come tu non sia mai veramente libero di esprimere ciò che intendi fare con il tuo lavoro, ma ci siano sempre delle strutture dentro le quali capire un attimo come incastrarti, e l'obiettivo nostro è comunque creare uno spazio attraversabile appunto da persone curiose che magari non hanno anche aperto che la fare. Contaminazione, esatto, nel senso, fare rete, assolutamente. Ci piace l'idea di farci contaminare da idee nuove, progetti che magari non abbiamo mai fatto, quindi anche provare a fare cose nuove, nel senso anche noi comunque siamo novellini, non c'è. Certo. Quindi se c'è qualcosa di nuovo mai fatto, dici ma perché no? Facciamolo assieme, anche con le ragazze appunto. Ciao Alessia, ciao Lucia, che avevamo portato per Art City. È stato molto bello perché anche con loro ci siamo sempre confrontati, siamo stati curatori di noi stessi, nel senso noi stessi ragazzi ci trovavamo lì a dire magari potresti fare così, come però cosa spostare, trovare giocare. Quell'intesa, siamo anche molto diciamo aperti, non abbiamo una figura di riferimento, siamo ognuno a riferimento dell'altro, e questo secondo me è molto funzionale. Sì, siamo diverse individualità che collaborano insieme e comunque ognuno di noi ha un bagaglio diverso, delle capacità diverse, anche proprio a livello pratico. C'è chi viene dalla grafica, chi viene dalla scultura, dalla fotografia, e poi ci sono tutte le nostre eventuali passioni extracurriculari, diciamo, esatto, che sì, si intersecano. E quindi diventa proprio uno spazio multi-practice, sì, multidisciplinare. Esatto. Nel senso. Siete voi tre? Ci sono altri due ragazzi, ciao Filippo, ciao Marco. Uno è a casa malato e l'altro è fuori. Io me la stavo aspettando, ci sta sul piatto del vento, no, nel senso che è fuori città. Ma anche se fosse dentro sarebbe fuori, sarebbe fuori, per cui lo salutiamo. No, nel senso, sì, appunto, per dire, io vengo dalla grafica di incisione, però per dire l'esempio che fa fotografia, io ho subito detto ma insegnami, cioè io voglio imparare. Esatto, la contaminazione proprio tra di noi e con le persone che attraversano lo spazio è fondamentale, cioè soprattutto in un periodo storico che sta vivendo Bologna in questo momento, in cui gli spazi comunque vengono messi un po' sotto tiro, dove si vuole creare un tipo di aggregazione anche diverso, dove ci può essere contaminazione, c'è una forte mancanza di spazi in questo momento a Sì, Bologna. Diciamo che gli spazi sono stati tolti per darli ai giovani ricchi che, esatto, fanno qualcos'altro, capito? Anche, esatto. Quindi potete dirlo tranquillamente dentro la Radio Città Fujiko, esatto, di questa cosa, perché voglio dire, c'erano spazi come spazi di creatività come l'XM24, esatto, che è stato sgomberato per essere lasciato vuoto per anni, sì, quando appunto sostituito con una tettoia in cui fanno il mercatino con terrificante. cioè, va benissimo avere il mercatino biologico, però francamente la scuola di serigrafia era meravigliosa, era simpatica. Ma infatti il primo giovedì di ogni mese che si fa il mercatino senza chiedere permesso, lì si fanno laboratori anche di do it yourself, e diciamo che per me in particolare, insomma, penso sia anche un sentimento abbastanza diffuso nel gruppo, c'era proprio questa necessità in primis magari di avere un posto dove poter crescere la propria persona come laboratorio, e anche solo un modo per autodeterminarsi anche in qualche modo, no? E credere in quello che fai, no, anche fuori dalle istituzioni, anche per una questione malgrado le istituzioni, comunque questi posti continueranno ad aprire, a fiorire, eccetera, capito? La creatività di Bologna non si ferma, esatto, non si ferma con l'avete affittato oppure è uno di quegli spazi che il comune dà? Abbiamo fatto un bonifico, l'abbiamo comprato sì, facendo la cameriera, lui è la tecnomat, siamo in affitto. Adesso c'era l'idea anche di diventare eventualmente associazione per provare a aderire a bandi, perché comunque le istituzioni ci fanno venire l'orticaria, ma dobbiamo imparare un attimo a sviare, no? Sfruttarle. Anche perché se ci mettono in difficoltà, se possiamo prendere qualcosa. No, chiaro, esatto. Chiaro. Cioè, voglio dire, la parte positiva delle istituzioni è appunto comunque la possibilità di partecipare a bandi e cioè a ricevere fondi per fare cultura, perché poi voglio dire, non è tutto, o a volte c'era tutto buono o tutto cattivo. Sì, insomma. Esatto. C'era il comune che dava proprio dava in gestione degli spazi. No, li dà tuttora. Esatto, sì, esatto. No, che è una cosa molto tuttora utile. Ci sono bandi per spazi dati ad associazioni, poi appunto, che ne so, alcuni sono nel treno della barca, che non è esattamente la stessa cosa che essere in via Cartoleria, capisci? A caval donato. Se fosse donato è che proprio anche la cosa del mettersi in gioco, nel senso, anche perché di provare a anche partecipare a dei bandi vuol dire anche comunque entrare in delle dinamiche diverse da quelle a cui siamo abituati, anche a interfacciare. Ma infatti anche quelle che culturalmente sono istituzioni a Bologna hanno cominciato come voi, capito? Esatto. Come prima collettivi, che poi diventano associazioni e poi diventano la storia di Bologna. Sto pensando a Cipo, a Serendipo, certo, o a varie altre, altre realtà, anche Xing, la stessa Xing nasce come collettivo e poi diventa appunto un'istituzione che è quasi parte del comune stesso. Adesso se mi sentono mi menano. No, però è molto bello avere qua Isabella, che diciamo che curando una mostra dell'Ottocento e si può relazionare con i ragazzi e le ragazze di Studio Sette Bello in un modo quasi agli antipodi, no? Cercare nel passato e dare uno sguardo nel futuro. Come ti affacci tu nei confronti di questi nuovi spazi? Beh, è interessantissimo sentirli parlare, sentire il loro punto di vista, perché poi io in realtà sono freelance, quindi in questo momento ho avuto questa opportunità da parte del Museo del Risorgimento, perché avevo pubblicato con loro una cosa sulla pittura a Bologna nell'Ottocento. E lo so che può sembrare molto passatista parlare poi dell'Ottocento, così a meno che la storia si ripeta, decisamente fuori moda può sembrare così, ma in realtà le dinamiche sono le stesse. Cioè, quando noi andiamo a sentire la storia, che ne so, di Giovanni Masotti, che sei venuta a raccontare l'altra volta, le dinamiche sono spaventosamente simili. E la società era molto meno ricca di quella attuale, quindi la fatica probabilmente era tripla, la medicina non era quella di oggi, quindi c'erano delle conseguenze molto pesanti sulla vita delle persone. Poi comunque l'Ottocento, ripeto, è un periodo storico un po' lasciato in ombra negli studi qui a Bologna, per cui mettersi a studiare l'Ottocento, lavorare sull'Ottocento è controcorrente, ve lo posso assicurare, è un modo per tagliarsi le gambe vede il sole. Siamo completamente paralleli allora. Siamo messi... Esatto. Voi pensate che ci sia tanta, sembra apparentemente che ci sia tanta diversità, e in realtà ci sono molti punti di vicinanza. Ma io, guarda, mi sono ritrovata ad apprezzare di più andare a un museo del Novecento, dell'Ottocento, comunque, anzi prima del Novecento, Ottocento, Settecento, piuttosto che andare in una galleria contemporanea, perché anche l'atmosfera, no, del mercato dell'arte è estremamente opprimente. Quasi nel romanticizzare il dipinto me la dimentico, non so come dire, cioè in un ambiente contemporaneo lo sento in maniera molto più pesante, cioè tutte quelle dinamiche, perché le senti su di te probabilmente. Esatto. Perché le senti su di me, e comunque anche a livello di portafoglio l'Ottocento costa meno del Novecento, che è anche quello, è abbastanza paradossale in realtà. Sì. No, sì, però sì, appunto è interessante vedere anche, perché poi immagino che tu comunque sicuramente fai questo lavoro da moltissimo tempo, quindi anche la tua esperienza. No, no, falso. No, falso. Passione. No, sei una sorpresa. Ma secondo te ci potrebbe essere una destinazione di ubicazione diversa rispetto alle gallerie per l'arte dell'Ottocento? Cioè, dov'è che si sviluppa questa mostra che stai curando? Ah, beh, guarda, sì, si possono fare tante cose diverse in realtà. Tutto dipende da che cosa ti lasciano fare i proprietari delle opere, e quindi le istituzioni, i musei che le prestano, ma anche i privati che le prestano, nel senso che teoricamente si potrebbero fare tante cose, però voi dicevate che ci si deve... comunque rapportare con le istituzioni, con le regole, con la burocrazia, con certe dinamiche o semplicemente limite della burocrazia da espletare, che non è poca, e quindi più che altro è quello che poi mette dei limiti. Poi non è un'arte così quella dello... Sì, sì, non è così. Non è così, come si può dire, la potresti inserire elitario. In tanti, esatto, sì, non è così elitario, sì, sì, la potresti inserire in tanti contesti diversi. Poi ci sono delle cose dell'Ottocento, di fine Ottocento, sul sociale, insomma, abbiamo visto Masotti l'altra volta, ma io penso porteremo in mostra Gaele Covelli, venite a vederlo, Maiani, saranno in Palazzo Comunale, sono dei quadri che vincevano i premi curlandesi, ma sono delle bestie di 3 metri per 2, enormi, ma bellissimi. E Maiani è stato esposto anche qualche anno fa, ma Covelli l'hanno appena restaurato, l'hanno restaurato proprio in Accademia di Belle Arti. Quindi magari l'abbiamo anche visto. magari è successo. Infatti mi dico, in realtà a volte non capisco come mai si pensi che a noi giovani non interessi questo genere. Sì, totale. Nel senso che non è che siccome sono giovane, io in realtà sono super affascinata anche dall'arte passata, mettiamola così, passata dico per una questione proprio temporale. No, ma è una, in realtà è proprio una questione magari di come a volte nasce dal contemporaneo. Sì, cioè in realtà mi piace il contemporaneo quanto l'Ottocento. A me l'arte piace tutta. Esatto. Ma proprio anche, cioè, se andiamo anche a vedere l'arte rupestre, a me piace tutta l'arte. No, anche perché non ci sono questi stacchi come le persone pensano di differenza tra l'arte antica e il contemporaneo. Capiamoci che per arrivare al contemporaneo sei iniziato dal passato. Da qualcosa sei arrivato. Esattamente. E forse a volte che mi dico, che non arriva così tanto quest'arte per una questione, e che non se la prendano con me i grafici per la grafica, come vengono proposte le locandine, i manifesti. Ma per me anche ci come si vengono insegnate. Ci sono sempre questi manifesti con queste immagini un po' bucoliche che sembrano, certo, che le hanno tirate fuori dal cassetto con la polvere, e dici, ma no, ma mettimela accattivante. Sì, accattivante, perché come dici tu è un'arte comunque che tratta un periodo storico particolare con anche le sue dinamiche, e deve essere, ed è stato un periodo accattivante, rendetelo, certo, accattivante, perché io penso che sicuramente richiamerebbe di più l'attenzione. E in questo partiamo con le pubblicità. Ok. Intanto vi faccio vedere. Camera presenta Vero Amore. Cane morto, cane morto, cane morto, cane morto. Sento coxo spaziali girare sulle atmosfere, sento coxo spaziale scendere sul pianoforte musicale, brilla coxo spaziale nel mio cuore e nei cuori dei radioascoltatori, c'è Marco Roma. È una trasmissione di Sixa. Fantastico questo pezzo di Riccardo Lolli che abbiamo avuto lunedì scorso, che salutiamo e di cui abbiamo parlato, fra l'altro, me sì, ne frega. Però quello che ci siamo dimenticati di dire lunedì scorso è che Riccardo Lolli ha un programma di musica qui su Radio Città Fujiko il giovedì alle 11 di sera alle 23, che si chiama Uova, Soda e Noci, ed è fantastico, per cui ascoltatevi Riccardo Lolli al giovedì sera. E questa canzone continua così, con questo... Continua così. No, nel frattempo stavamo parlando del fatto che la cultura artistica in Italia è stata un po' denigrata, e questo, cioè, ha fatto del male sia all'arte dell'Ottocento, ma anche al contemporaneo, insomma. Perché infatti siamo qui con la curatrice Isabella Stancari di una curatrice Isabella Stancari e con Silvia Minali, Chiara Ferri, Gregorio Migliacci dello studio Sette Bello di Bologna. Isabella, tu ci stavi raccontando di una mostra che stai cominciando. No, anche perché c'ha tipo 50 fogli di carta di cui deve parlare su questa mostra, per cui adesso le diamo il microfono. Spavento le persone. Esatto. No, il fatto è che la mostra apre la prossima. No, dunque, vediamo. Sì, è la prossima, settimana. Perché è il 21. Esatto, primo giorno di primavera. Su più sedi, come dicevamo, sono 14 sedi. Tra enti pubblici, musei comunali, Museo del Risorgimento, da Via Bargellini, gallerie, fondazioni, insomma è una cosa che coinvolge tutta la città. Tra l'altro una cosa del genere non è mai stata fatta, o sbaglio? Una mostra così diffusa dell'Ottocento. Dunque le ultime mostre sull'Ottocento poi risalgono all'Ottocento. Però ecco, ci sono state delle monografiche su Alessandro Guardassoni, su Luigi Serra, e quindi arriviamo fino ai primi anni 2000, ma così corale con tanti autori diversi, quindi cose non monografiche. E bisogna arrivare agli anni 80, al 1983, con dall'Accademia al Vero, con Renzo Grandi, quindi voglio dire, ne sono passate un po' di, andiamo un po' indietro, ne sono passati di anni. E anche questo format di mostra diffusa tra vari spazi espositivi, varie istituzioni espositive bolognesi, è una cosa che avevi già fatto in passato? No, questa è una cosa che si sperimenta qui ora, adesso. Qui ed ora. Ed è l'idea appunto di Roberto, proprio perché è comunque le forze di una singola istituzione come può essere il Museo del Risorgimento sono comunque limitate. L'idea è stata dare questo impulso positivo a più realtà della città, in modo che fossero coinvolte, che appunto ognuno tirasse fuori quello che ha. C'è anche la Fondazione Gualandi, questa non l'abbiamo ancora nominata. Ci devi nominare tutto. Ah, caspiterina, un pochino più lo fai come credi, no? È che tutti questi fogli mi lasciano un po'. Sì, lo so, sono inquietante. Il biglietto per la mostra dura più di un giorno? Dunque, il biglietto per la mostra. Ci sono delle formule, perché praticamente si può presentando un biglietto di una delle altre sedi, certo. Allora tu ottieni uno sconto sul biglietto dell'altra, quindi più ci sono anche le gallerie private, certo, per esempio, che aprono gratuitamente, certo. Insomma. Anche Casa Carducci non è gratuito, sì. Il Da Via Bargellini, il Da Via Bargellini è gratuito, certo. Il Museo del Risorgimento fa ridotto, costa 5 euro ma ridotto è 3, okay. Le collezioni comunali d'arte sono 6 euro, ridotto diventa 4, Museo dell'Ottocento 12, ridotto 10, al Venturoli si va anche gratuitamente, hanno bisogno di 5 euro, ridotto 3 euro, okay. E Palazzo Fava 5 euro, ridotto 3 euro, insomma quindi... si è cercato di tenere. C'è anche la provincia, perché per esempio Museo e Teatro San Giovanni in Persiceto, 5 euro ridotto 3 euro, cioè l'idea comunque è stato calmierare anche nei casi in cui comunque è necessario un biglietto, in ogni caso si è cercato di, vedete, sì, calmierare molto i prezzi, quindi i prezzi, vedete, mediamente sono bassi, con 5 euro quindi l'ascoltatore di Cox Spaziale non si spaventino delle 14 venues di questa mostra sull'Ottocento, che è quasi un approccio quasi serie, no? Che inizi una cosa e poi non riesci più a smettere, quindi vai a vedere la sua continuazione nella sede successiva? C'è una sorta di prima e un dopo tra le varie sedi? In realtà no, io direi che il format è quello del trekking. Tu prendi e vai e ti muovi in città. Tra l'altro c'è il librettino, sarà stampato, ma ve lo potete anche scaricare da internet, dal sito del Museo del Risorgimento di Bologna, e c'è la piantina con tutte le sedi espositive segnate. Quindi in realtà, gambe in spalla, uno si che prende la mappetta e si muove e gira per tutta Bologna. Poi dobbiamo anche dire che comunque la conferenza stampa non è ancora stata fatta, cioè questa è un'anteprima dell'anteprima di questa mostra diffusa. Anzi, grazie che sei venuta a raccontarcela. E c'è tempo perché apre il 21 mm-hmm. e chiude il 30 di giugno. Ok, fantastico. Sì, il periodo più bello della città. E, no? E dunque, di tutto questo, qual è la parte che ti ha esaltato di più? Probabilmente quella che ho dovuto preparare io, insomma quella relativa al Museo del Risorgimento e il pezzettino che il Museo del Risorgimento allestisce nelle collezioni comunali d'arte. Andate a vedere tutte e due queste sedi. Quello che io consiglio ai visitatori è: non andate solo alle collezioni comunali d'arte perché è comodo, perché è in Piazza Maggiore, siete in Palazzo d'Accursio e quindi bene o male è un punto molto centrale della città, ma abbiate fede e andate anche al Museo del Risorgimento a vedere sia il Museo del Risorgimento, ma poi c'è anche la sala allestita, vedrete delle cose che generalmente non si vedono. Ecco, io sono veramente molto curiosa, cioè adesso sì, mi sento proprio, ma poi è bello perché crea un po' un viaggio, no? Attraverso la città, attraverso architetture diverse, ma anche vedere musei spazi che normalmente non vedremmo, nel senso E opere che in realtà non vedreste. E poi ripeto, secondo me è anche molto interessante andare a vedere per esempio le gallerie, certo. Entrare e vedere che cosa espongono, e poi è un'occasione anche per andare fuori Bologna, quindi per esempio anche a Crespellano e a San Giovanni in Persiceto, perché anche loro espongono, anche lì si espone, cioè se volete vedere delle meravigliose vedute di Geduzzi voi dovete andare a Crespellano. Wow. Quindi l'idea è che ci sono cose in città ma anche cose fuori città. E direi che questa è l'introduzione perfetta per il nostro l'angolo della menzione. Che devi cominciare tu perché io non... eccolo qua. No, comincio con martedì 12 marzo alle ore 18, esatto. Presso il Cubo in Torre dell'Unipol, nell'ambito della mostra Tempi Nuovi di Stefano Non, a cura di Claudio Musso, la conferenza Affinità, divergenze fra il geografo Farinelli e noi. Un dialogo con il professore Franco Farinelli condotto da Claudio Musso e Stefano Non. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Tutto questo allo spazio Cubo in Torre Unipol di Via Larga 6B. Che fra l'altro mi dicono essere altissimo, per cui è anche l'occasione di poter visitare questo grattacielo abbastanza visibile. Poi giovedì 14 marzo alle ore 14:30 invece all'Accademia di Belle Arti nell'Aula Magna abbiamo Mario Nanni, l'opera nell'opera, incontro con Mario Nanni. Da oltre 50 anni Mario Nanni usa la propria esperienza nella luce e la propria professionalità artigiana per sperimentare e costruire, componendo così una propria poetica progettuale. È regista, scenografo, costumista e disegnatore di gioielli, scrittore della luce e poeta. Questa è l'Accademia di Belle Arti in via Belle Arti 54 a Bologna. E infine sabato 16 marzo dalle ore 17 alle ore 21 Metamorfosi con Cécile Beau, Nicolas Boulard, Jean-Baptiste Caron, Charlotte Charbonnel. La mostra è il frutto di un progetto di scambio nato dalla volontà dei galleristi Alessandro Luppi e Rosario Caltabiano di favorire la visione e la ricerca dei propri artisti e di ampliare i propri network presentando progetti inediti e pensati specificatamente per i rispettivi spazi espositivi. In parallelo, infatti, durante lo stesso periodo, Labs Contemporary Art presenta Puntinismo, doppio personale degli artisti italiani Giulia Marchi e Marco Emanuele, che è inaugurato presso 2248 metri quadrati lo scorso sabato 3 marzo. Questo è a Parigi. Invece questa mostra è a Labs Contemporary Art in via Santo Stefano 38, che fra l'altro è vicinissimo al nostro studio 7 Bellum. Passateci a trovare. Passiamo da tutti. basta, sono finite le menzioni. Questa settimana succede poco, perché poi la settimana prossima abbiamo così 14 mostre che inaugurano, e dunque saremo abbastanza impegnati. E la settimana prossima è già primavera. Mi dicevi, Isabella, che inaugurate quasi tutti il 21 proprio. Quasi tutti il 21, non proprio alcuni tutti un po' prima. Alcuni un pochino prima, il 20, ho visto. Però diciamo l'apertura ufficiale è il 21. È il 21. Per tutto il 21, voi potete già col vostro zainettino, le vostre scarpe comode, pranzo al sacco, posizionarvi e partire, farvi tutte le sedie espositive una dopo l'altra, magari piano piano, ma dato che c'è tempo fino al 30 di giugno, ecco. Più di 500 opere alla fine esposte da tutte le sedie espositive, 72 artisti. 72 artisti. Caspita. Sì. Non male, è quasi una manifestazione, una mostra manifesto. Quasi una biennale. Sì, una mostra manifestazione, una mostra manifesto. E poi ci sono cicli di conferenze. Ah, certo, non potevano sempre mancare. Del resto. Sì. Quando ci sei tu. Non mancano le conferenze. Sappiamo che non mancano le conferenze. Non mancheranno le conferenze. Su temi più disparati, sempre legati all'arte dell'Ottocento, ma c'è di tutto. Caspiterina, avete cose sul paesaggio. Dici almeno quelle che fai tu, dai. Ma no, io ne faccio una sull'album Belluzzi. Sull'album Belluzzi, che è la cosa con cui ho iniziato a studiare l'Ottocento e che mi pubblicò il Museo del Risorgimento, che è un album fotografico di fotografie d'epoca. Di quadri vanno dagli anni 30 più o meno dell'Ottocento fino al primissimo Novecento. Sono fotografie conservate al Museo del Risorgimento, le aveva collezionate il primo direttore del Museo del Risorgimento, Raffaele Belluzzi. Wow. E poi le lascia, diciamo, in eredità alla sua creatura, al suo museo. Erano tre album alti così, all'epoca era di moda, no? Raccogliere le fotografie. Uno è dedicato alla scultura e se ne occupò Martorelli nel 2008. Un altro era eventi e architettura e fu effettivamente pubblicato, mancava quello della pittura. E io mi sono messa lì e ci sono tutte queste fotografie di quadri, alcuni si sapeva dove erano perché erano per esempio al Mambo, perché venivano da dei premi, ma altri, boh, che cos'è? Dove è andata a finire? E quindi c'è stata tutta la caccia a vedere se si scopriva qualcosa, notizie storiche di questi quadri, che fine avevano fatto. In qualche caso sono anche venuti fuori. E la cosa interessante che è venuta fuori poi è anche che questi quadri viaggiano tanto. E poi tutta quest'arte ottocentesca o tardo ottocentesca va fuori Bologna, ma va anche fuori Italia, nei paesi del nord, Germania. Quando sarà questa Olanda, tua conferenza su quest'album che è super interessante? A maggio, il 9 di maggio. Ritornerai. A questo punto però ti devo... No, infatti, ritornerai a raccontare. No. Sì. Se qualcuno volesse sapere tutto il calendario naturalmente va perché sito, è necessario, va al sito del Museo del Risorgimento e c'è tutto il calendario delle conferenze, ma poi ci sono anche le visite guidate, certo. Ci sono le manifestazioni in costume. C'è, sì, c'è anche quello. Manifestazioni in costume? Sì. Ma che meraviglia! Io voglio farle tutte. Io ti devo fare una domanda, ma è di tutti questi quadri che tu hai cercato, se te la racconto, ce ne sono alcuni che non hai trovato, per cui è rimasta l'aura di mistero e non si sa nulla su questi quadri? Proprio nulla. Difficilmente. Non necessariamente, no. Però perché comunque l'autore c'era scritto sì, in genere. Però ce ne sono alcuni che sono rimasti misteriosi e su cui ho fatto delle congetture, ma poi sì, lì rimane tutto aperto. E poi sono le vite, le biografie di questi artisti, perché alcuni a un certo punto tu trovi notizie fino a un certo momento e poi basta. E ti dici, ma che fine ha fatto? esatto. E allora lo cerchi nei giornali. Ubriaco in un fosso, che domanda. Una cosa molto interessante, perché questo è proprio lavoro di ricerca d'archivio, no? Io ho fatto un pezzo della mia tesi che era un po' in quest'ottica, e la roba super interessante è che quando si blocca la vita di una persona che stai ricercando, spesso l'altro pezzo lo trovi nella vita di un'altra persona che è collegata in un qualche modo, e quindi diventa proprio una ricerca di tra reti, no? Vedere cos'è collegato a quello. Ma è verissimo, perché poi alla fine scopri, va bene, la Bologna dell'epoca era piccola, quanti saranno stati? 55.000 abitanti, 60.000 sì, abitanti, tipo Casalecchio adesso. Quindi in realtà questi qui si conoscevano tutti in un qualche modo, erano in relazione, uno era il maestro dell'altro, poi però si muovevano molto, quindi comunque si spostavano in Italia, e poi alcuni, quando c'è questa cesura, poveretti, o sono morti giovani, capitava, o se no emigravano. Li ritrovi in Sud America, ah, certo, a fare delle vite completamente folli. È stato incredibile, perché poi scopre delle cose. Quando lo ritrovi per caso, dici: ecco dove era andato a finire. In Brasile. Non so, è andato. Sì, uno lo ritrovi a Bogotà, uno lo ritrovi a Cuba. Eh sì, perché in quel periodo si emigrava molto. Si emigrava, infatti, molto. Tanti e in pittori Sud America. Sono andati in Sud America. Tanto, infatti. Tanto. Portandosi dietro le loro opere. Alle volte sì, alle volte no. Alle volte no. Però magari lì avevano quelle occasioni di lavoro che qui non c'erano. Un po' come adesso. Non è che le cose siano troppo cambiate. È proprio, dici bene, come dicevi prima, è molto contemporaneo. Perché il Sud America? Beh, perché era proprio il periodo dell'emigrazione verso il Sud America, si iniziava a popolare il continente americano, ma non solo. Noi dal cinema siamo molto influenzati, pensiamo sempre al Nord America, così, ma tutto il Sud America, ma pensiamo all'Argentina. Sì, un terzo dei cognomi argentini è italiano. Sono italiani. Detto questo, stiamo finendo il tempo. Sono arrivati i nostri amici di Banta 80. Quando si fa radio ci si diverte e il tempo vola. C'è qualcosa che volevate dire che non siete ancora riusciti a dire? Io una roba, una cosina. Una cosina. Per chiunque ci stia ascoltando. Ok. Se si hanno idee, proposte, il nostro spazio è aperto a collaborazioni. Non devo troppo forte, perché poi arrivano tutte. E a lavorare. Mm-hmm. E quello di cui ci occupiamo principalmente sono la serigrafia e altre tecniche di stampa. Abbiamo la camera oscura curata da Gregorio. Ciao. E poi un piccolo spazio di falegnameria e Filippo, che vabbè ha il suo spazio individuale dove dipinge. E inoltre siamo aperti appunto a fare laboratori, workshop, e quindi open mind, come direbbero. vi scrivono su contatti Instagram, che siete come me, Facebook è morto. Ci trovate su Instagram cercando lo studio 7 bello, c'è uno smile adorabile, esatto. Oppure direttamente logo, in via Cartoleria numero 7. Venite, esatto, in Cartoleria numero 7. Infatti, Isabella, verrò via Cartoleria numero 7. Allora, noi ti veniamo a trovare, però anche tu devi venire a trovare assolutamente noi. Ma io mi sono già segnata via Cartoleria numero 7. Del resto il cuore di Coxo Spaziale è proprio far succedere questi incontri. Isabella, c'è qualcos'altro che volevi aggiungere a tutte le... No, io... Molto bene. Tanto poi mi sono segnata anche via Cartoleria numero 7. Super. E dunque noi ci vediamo lunedì prossimo. Io come al solito ero mia da Schio su Pie. Che cosa sta succedendo? Sta scoppiando qualcosa? Ah, ok. Invece improvvisamente. Io ero Stefano W. Pasquini. Questo era Coxo Spaziale. E come al solito vi salutiamo con le parole del nostro... del nostro direttore, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Them keys and I'm leaving, please believe it. Me and popping the bottles. What good is all the fame if you ain't fucking the models? I see you driving sports car, ain't hitting the throttle. And I'll be down to 100 top down and goggles. Get off the freeway, exit 106 and park there. Ashtray, flip gate, time is fuck yeah. Gucci collar for dollar, got out, walked there. Spit game is baby, I can't talk it. Whoa. Take it off like you're home alone. You know, dancing from the mirror while you're on the phone. Checking your affection and telling your best friend, like, girl, I think my fucking bitch. It's getting hot in here, so take off all your clothes. We are getting so hot, we're gonna take our clothes off. It's getting hot in here, so take off all your clothes. We are getting so hot, we're gonna take our clothes off. Mix a little bit of with a little bit of. With a little bit of, can it just fall out? Give me some of that, with a sprinkle of it, can it just fall out? I like it when you, girl, baby, make it, can it just fall out? Stop pacing, time wasting. I got a friend with a pole in the basement. What? I'm just kidding, like Jason. Oh. Unless you gon' do it. Extra, extra, spread the news. Check a Jenny, took a trip in the loot of the Neptune. With a sprinkle of it, can it just fall out? I like it when you, girl, baby, make it.